20, 10, 20, 20, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Papusce, Gianiella, Zucculilla, Zeppa, Spadriglias, Silverra, Cos, con la forma più difficile ci dovevano fare a noi. Lo stivale, cappamore D, è bello, elegante, fa sempre la sua figura. Ma è una responsabilità lo stivale, perché lo stivale a finale sa da sapere purtà. E c'è quello delle guardie che si sporca sempre la punta avanti, pure troppo si sporca la punta avanti. E per carità, siamo tutti persone oneste, non disprezzando a voi, ma non ci piace proprio questo stivale delle guardie. E c'è quello che marca pornostar, tipo velino cubista, uso cugino di campagna, che lo vedi e pensi, wow, ma per cortesia, è improponibile uscire così. Per andare sulla moto, per andare a cavallo, col tacco a spillo, col tacco a banana, a finale già sai, si deve saper portare. E se va stretto, cai che tarantella. A camminarci non è cosa, e a toglierlo, si raffonna la salute. Ma non te lo dico poi se un giorno bello e buono scopri che 100 stivali sono buoni per uno scarpato. Ma non 100 scarpari per lo stivale. Di Cremona, Strazzullo, Parisi. Mi sta stretto lo stivale. Radio 2010, Tony Mondiale, poeta e chiavico. Salve a tutti. Ciao Alessio, come oggi, stai? Oggi è strascicato, oggi puntata strascicata. Eccoci qua. Fammelo dire, il mio solito apertura. Buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte. Radio 2010, mi sa stretto lo stivale. Riccardo Cremona. Alessio Strazzullo. Alessio, come stai? Ma questa settimana bene. Aspetta, bene, Alessio, bene. In verità mi interessa poco di come stai. La cosa più importante è salutare la nostra regia, in cabina di regia, il nostro mitico DJ Corrado Parisi. Ciao Corrado, come stai oggi? Buonasera! È sempre lo stesso, Suppongo che stia bene, cioè nel suo male sta bene. Che è una parola eccessiva, bene, però diciamo che va bene così, ci piace così. Come l'abbiamo presa questa sconfitta di ieri sera? Ma guarda, me... Che non ne abbiamo ancora parlato, neppure tra di noi. Vabbè, in verità stiamo parlando Napoli-Juventus, anzi Juventus-Napoli, Coppa Italia, il Napoli purtroppo ha perso. Siamo stati capaci di risuscitare i cadaveri, perché io penso alla Juventus siano dei morti che camminano, è una cosa inguardabile. È come quando ho visto il Napoli giocare in Serie C col Frosinone. Però una bella rivincita ieri sera sono presi, eh. Ma quali rivincita? Infatti sono rimasto male, per questo non sono tanto contento oggi. Sono un po' triste, sono anche un po' nervoso. Ma perché nervoso? La Coppa Italia, ma chi se ne frega della Coppa Italia? Come il trofeo team d'estate. La Juventus vuole sempre vincere e poi fa cacare. Il trofeo Birra Moretti. Bravo, poi bravo. Chi lo perde vince il campionato. Sa, questa è una stronzata che chi perde dice per recuperare. Ma diciamo la verità, non ci interessa niente, sempre forza Napoli. Comunque, secondo me ieri abbiamo giochicchiato, abbiamo fatto giocare gente che non giocava da anni. Confidiamo in Mazzarri comunque. Sempre. Confidiamo sempre in Mazzarri, la nostra guida, la nostra unica guida. Vabbè, partiamo subito al razzo. Di che adesso parliamo oggi? Di che parliamo? C'è una notizia che mi ha solleticato il palato qua sotto. Non ti preme, non ti preme, ti solletica oggi. Mi solletica un po', mi preme, dipende, dipende come la prendiamo. La notizia, la notizia si svolge nella Grande Mela, tu sai, New York. New York, abbiamo degli amici che sono tornati da poco da New York, ci hanno detto che New York è veramente grande. Penso sia la metropoli enorme. Beh certo, non è che sia Fisciano, stiamo parlando di New York. Fisciano è uno dei campus universitari più efficienti d'Italia. Capito, non so se ci... Però non è Fisciano culla della civiltà, stiamo parlando di Fisciano e New York. Anche New York è culla della civiltà. No, però è la metropoli più importante, più grande del mondo, cioè il fulcro, cioè diciamo che è un grande box per i bambini la civiltà, più che una culla. Sai quei box dove li metti dentro, che hai detto culla, Ma allarghiamola un po'. Ma falla finita, è enorme, New York è enorme, siamo a New York. Praticamente a New York abbiamo una giovane, una signora che, italiana. Che quartiere di New York? Manhattan, che è più un quartiere, un'isola. Chiedo alla regia, Manhattan è un quartiere, si può dire Manhattan come quartiere? Secondo me no. Secondo me no, perché Manhattan, cioè, fa ridere, perché Manhattan è un'isola. Cioè, capito? Però dicono quartiere... che è un quartiere, cioè, ci può stare. Come pensa quanto è grande New York e come quartiere ha un'isola. Cioè, capito? Che quartiere abiti su un'isola? Vabbè, comunque andiamo avanti. Stiamo parlando di una signora italiana di 72 anni. Quindi... Ah, è una giovincella. Sì, una giovincella. Giovanotta. Sì, una giovane donna così bella, pimpante, una certa Felicia Lettieri. E te coi nomi siamo proprio umiltà, proprio... Felicia. Comunque ci troviamo a New York. La signora prende un tassi, sai, quelle, i tassi a New York se ne, ce ne sono a morire. Sale sul tassi, caratteristica di New York che i tassisti sono tutti quanti, vengono tutti quanti dall'est, cioè... Vabbè, ma diciamo che comunque è una città così multicolore, multirazziale. Sono quasi convinto che non trovi un tassista newyorkese. Trovi tutti questi tassisti arabi, indiani. E stiamo parlando in questo caso di un tassista bengalese. Leggo il nome perché è complicato: Mukul Asaduzzaman. Vabbè, pure questo nome, cioè, Vabbè, però, è giustificato. È giustificato. È bengalese, come vuoi chiamarsi? Ciro Esposito, vabbè, è un bengalese, così si chiama. Vabbè, la signora fa, dice dove deve andare, destinazione, tassametro va dove deve andare e se ne esce dal tassi, lo lascia perché arriva alla destinazione. Il bengalese si gira, come al solito, controlla dietro se la signora ha dimenticato qualcosa e trova un portafoglio. Oh. E dice: un portafoglio alla signora, quanto potrà contenere? Ah, che ne so, $100 massimo. E invece, stai sbagliando clamorosamente, la signora conteneva il portafoglio della signora 14.500 euro. No, non è possibile. Cioè, 14.500 euro sono un'infinità. Un'infinità, una macchina. Un pacco di soldi. Sì, sarà. Immagina nel portafoglio questo pacco di soldi. Come ha reso questo portafoglio? Cioè, c'è bisogno di un trolley. Cioè, è enorme. Una cosa... Ma dall'altro, la signora, dove l'avete questi soldi nel portafoglio? Io, secondo me, la signora. Secondo me ne aveva in una busta tipo del Lupin, della Standa. Sì, finti. Così. No, sai, no, oppure col sacco con la S dei dollari sopra. Secondo me la signora. Di paperone. O la signora ha una pensione enorme di 14.500 euro. Magari sono i risparmi di una vita. Che puoi fare. Capito, ma tutta la vita. 14.500 euro con il nostro sistema pensionistico, te puoi pure scurdà. Puoi faticare anche da ordini di 7 anni fino a 72, non ci arrivi. Non ci dicono di dov'è la signora. La signora, no, una pensionata italiana. Una pensionata italiana. Ma la cosa bella, secondo me, sarà in qualche giro di traffico di organi. Aveva appena venduto molto il rene del marito defunto. Un paio di reni in Bolivia, sì, in Argentina, così. Forza. Anche una cistifella. Ma la cistifella è una delle cose più ricercate in assoluto. Introvabile. E comunque, il bengalese, a posto di fuggire coi soldi. Non ci credo, mi stai per dare una notizia incredibile. A posto di fuggire coi soldi, ha preso il suo bel tassì giallo, ovviamente, perché in America sono gialli, e si è fatto Manhattan Long Island Manhattan, che sono circa 400 km di distanza, per non cercare la signora. Non poi come trova la signora a New York, che terrà non so quanti però abitanti. È stato bravo. Cerca la signora, fa signora in arabo, naturalmente, signora. Penso in inglese, no? Ma che ne so, in qualche lingua. Comunque, signora, non in italiano sicuramente. Non in italiano sicuramente. I suoi soldi. E la signora si. Signora, è venuto in infarto, è morta. È morta la signora. È morta lì, no, è rimasta lì. Ci rispediscono il cadavere fra che ne so. No, la signora è bellissima. Tanto 72 anni, insomma, non è che. Vabbè, perché devi farla morire? Ormai la gente dura tantissimo tempo da far morire sta signora. Ho capito. Tra l'altro guadagna pure bene, lasciamola guadagnare. La signora è sopravvissuta alla notizia. E non solo, ha proposto di dare una ricompensa al tassista. E il tassista che cosa ha detto? Al gentiluomo. Che cosa ha detto? Sì, il tassista. No, ha detto no, grazie. Ho fatto solo il mio dovere di tassista. Tra l'altro qui leggo che lui tra l'altro è uno studente di sì, lui è uno studente di medicina di Queens, del Queens. Però ha rifiutato. Cioè, ha rifiutato, ha detto no, non li voglio i soldi. Cioè, tu cioè, a parte la questione è bellissima, sembra un film, potrebbero farlo, tipo Richard Gere. Non si sono innamorati, però. No, non sono baciati alla dopo fine. Dopo non è che stanno lì a rovistare nelle lenzuola tutti. Ma che razza di film ti vedi? No. Comunque, no. Ognuno ha i suoi gusti. Ma tu immagini che accade, se fosse accaduto questa storia. Questa è una domanda interessante. A Napoli. Sì, Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, scena. Tu esci da Piazza Garibaldi, non trovi un tassi vero. Trovi una solo signora americana di 72 anni. Perfetto, una certa Margaret qualcosa. Ok. Arriva lì, bella con gli stivali americani, perché è un classico. Arriva con gli stivali e la bandiera americana in mano per farsi riconoscere. Arriva lì, cerca un tassi, non lo trova perché non è come New York. Lei alza la mano e fa: taxi. No, e col cazzo che lo trova, diciamo la verità, e trova il classico tassista abusivo. Gennaro Esposito. Con che macchina? Tipo una Uno, una Fiat Uno. Una Duna. La Duna è perfetta. È proprio la classica macchina dei tassisti abusivi. Perfetta. Quindi dopo circa 2 ore di contrattazione, perché naturalmente Gennaro Esposito in inglese non sa niente, ma proprio niente, e la signora giustamente in napoletano non sa niente. Quando a un certo punto hanno capito che la signora non vuole andare a Piazza Plebiscito, perché quello sempre le solite cose, quello di là, sale in macchina, la porta, Lei se ne va, lui si gira appositamente a vedere se la signora ha indicato qualcosa, e diciamo si gira appositamente e trova il mappuoio. Mappuoio sarebbe parecchi, parecchissimi soldi. Cioè, trova gli stessi soldi che mettiamo, trova 14.500. Che cosa fa? Che cosa fa? Secondo me la prima cosa che fa, accende la macchina e se ne fugge, parte, velocità via, della luce, boh, lui, la luce, non lo trovi più. 400 km verso nord. Se ne va lontano, abbandona la famiglia. Vale lo SNAI, secondo me, di Pizzo Calabro. E si gioca il primo Ledbrooks che bravissimo trova d'angolo, scende e si gioca tutto. Melpignano. Melpignano Trevigiana, si gioca tutto sul lino fisso. E vince. E vince perché noi siamo così. Siamo sognatori. Comunque ha fatto 400 km per fuggire lontano e non lo troverai mai più. Mai più. Perché Gennaro Esposito, sinceramente, non è bengalese, non studia medicina e sicuramente non è un signore come bengalese. Però che bella storia. No, bella storia. Bella storia, bella storia. Sì, accetto. Andiamo avanti. Questa notizia vola. Questa è una notizia un po' particolare, Riccardo. Lasciamelo dire. Più allora, locale, so. Noi registriamo da Fuorigrotta, lo sanno tutti. A Fuorigrotta ci sono un paio di quartieri. Un po', diciamo, come possiamo dire? Diciamo non malfamati, ma di più. Danno un po' di problemi. Uno di questi è il rione Traiano. Sì, e conosco. Nel rione Traiano è stata trovata addirittura una famiglia spacciatrice. Come una famiglia? Allora, nel senso, abbiamo la nonna. Sì. Ok. La nonna. C'era una nonna che spacciava di 76 anni. Cioè, anche lei bella giovane. Però 76 anni, insomma. Comunque, i carabinieri hanno sorpreso una famiglia intenta a spacciare. Una famiglia intera? Una famiglia intera. Tre generazioni. Sì. Nello spaccio di droga, quindi in questa fiorente attività, soprattutto qui nell'imprenditoria locale, sì, nella nostra città ed anche nella nostra nazione, hanno trovato una nonna, sì, che ha un bel nome, eviteremo di dirlo questa volta. No, non diciamolo perché diciamo la verità. Di 76 anni che spacciava. Poi? La figlia di 47 anni che spacciava. Pure. E abbiamo finito qui? No, i nipoti 20 e 19 anni che spacciavano. E dirai, vabbè, è finita la famiglia, tanta gente, basta così. Diciamo che siamo arrivati. E invece no, c'era una sorellina più piccola di 16 anni che spacciava anche lei. No, non ci credo. E faceva il corriere, andava da un palazzo all'altro. Cioè, praticamente la famiglia del Mulino Bianco. Perfetta, però al posto delle macine abbiamo la cocaina, ragazzi. Perfetto. La cocaina. Cioè, stiamo una cosa. Questa notizia mi sconvolge adesso, perché tu sai, io ho il classico immagine della nonna che fa la calza, che fa i biscotti. Qui anche si parlava di cioccolatini. Sì, che era fa i biscotti, che ti racconta le favole, che ti dà i consigli. E invece questa nonnina, apposta di dare consigli, insegnava a tagliare la cocaina. Esatto. Tu la mattina, la domenica mattina a Napoli, quando ti svegli, senti l'odore del ragù. Per esempio. Sì, per io invece ricordo, per esempio, mia nonna che faceva la pasta fatta in casa la mattina. Comunque, la nonna è il classico odore mattutino che sta cucinando qualcosa. Questa taglia la cocaina. La mattina tu senti odore di ammoniaca perché le stai tagliando la cocaina. Ma poi la cosa bella, sai qual è? Che ci sono dei mestieri che vengono tramandati da in generazione, tipo, che ne so, il falegname, l'idraulico, il carabiniere pure. E pensare che si tramanda pure l'attività imprenditoriale, che stiamo parlando di spaccio di cocaina, che naturalmente non è legale, diciamolo, anzi, più che non è legale, è praticamente carcere a vita. Sì, sì, assolutamente. E viene tramandato. Questo ti fa pensare che fra i napoletani, alcuni napoletani, sia un mestiere come l'altro. Sì, assolutamente. Che fa papà? Spaccia, è il tuo. È mio, fa l'idraulico. Ah. No, ma la cosa interessante è poter immaginare questa enorme colazione mattutina in cui la nonna inizia a smistare cose, sì, e loro iniziano a lavorare. Sì, tu pesa qua, tu pesa lì, vai là, vai a prendere qua. A mia nonna, a mio Natale, dava le bustine con dentro 50 euro, sai, 50.000 lire. E qui secondo me i soldi erano un po' di più a fine mese. Ma secondo me, a parte che sono un po' di più, ma secondo me le bustine dentro di soldi proprio zero. Qua stiamo parlando della famiglia Escobar, nonna Pablo Escobar, secondo me la chiamavano così. Cioè, ti immagini questa vecchietta che spaccia e poi dice: figliola, porti, vieni, fai, continua la mia imprenditoria, spaccia pure tu. E poi la mamma, pure lei, figlioli, spaccia pure tu. La nostra cara bella. Meno città. Male che l'abbiamo fermata, perché altrimenti qua, figli, una più grande piazza mondiale, tutta la famiglia che spaccia, non va bene. Vola la notizia. Andiamo avanti, siamo dei razzi. Oggi notizie rapide e concise. Non ci ferma niente. No, io adesso, qua mi preme. Qua mi preme proprio. Ora ti preme. Perché questo è proprio l'argomento mio, ne abbiamo parlato in tutte le puntate. Di cosa parliamo? Di donne parliamo? Ma qua di donne, che poi in radio non si parla di donne. Ma perché non si parla di donne? Ma perché le donne sono complicate, come fa la radio, la donna, se mi fa impazzire. Parliamo di cose più semplici e soprattutto dell'argomento che io parlo più spesso e tu tra l'altro sei in contrasto con me. Già so di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di Facebook. Ah, Facebook. Lo sai che io lo odio, lo sai che io lo odio. No, io lo so che tu lo odi, però già l'altra puntata abbiamo scoperto Ma hai fatto il tiro mancino che io non ho, dal gran signore che sono, fattelo dire, non ho voluto restituirti. Semplicemente non hai trovato niente, su cui poter battere perché sono per bene solo interventi culturali sul mio Facebook, sì, solo note culturali. Perché tu la notte sei andata e hai cancellato tutto, sono sicuro. Hai cancellato tutto, tutti i tuoi test maledetti che avevi fatto, perché io ti conosco, Alessio. A prescindere dal tuo Facebook, io ti conosco. Sì. Se tu non avessi cancellato su quel Facebook che avevi trovato proprio il pentolone d'oro, potevo fare una puntata di 2 ore. Tu che ne pensi? Secondo te, DJ Corrado Parisi, cosa c'era secondo te sul Facebook di Alessio? Dovete applaudire a tempo! Quest'uomo vive un incubo. Io lo amo, io lo amo, è un sognatore. Vive un incubo. È un sognatore, è così. È una delle poche persone che ormai resta aggrappato ai propri sì, sogni. Sì, è un sognatore, è così. Lui non gliene frega niente del mondo moderno, è legato al suo vecchio mestiere e così va avanti. Peccato che fargli un'intervista è pressappoco. No, è possibile, ovvio. Cioè, che cosa gli... Non è possibile. Infatti noi lo cerchiamo di aiutarlo, ma come al solito non... Allora, dicevamo di Facebook. Allora, su Facebook la novità è che alcuni italiani hanno creato il suicidio da Facebook. Non è possibile. Sì, non è possibile. Il suicidio da Facebook. Praticamente il servizio si chiama Seppuku, che è il suicidio l'arte rituale. L'arte giapponese di tagliarsi le budella davanti a tutti. Certo, mi piace l'arte giapponese di tagliarsi le budella. Sì, di squartarsi sangue dappertutto. Abbiamo capito. Mica stiamo facendo Blu Notte, basta così. E comunque permette il suicidio. Che vuol dire il suicidio? Tu vai su questo sito e inserisci i tuoi dati, la tua password. Lui si prende la briga di entrare nel tuo Facebook, cancellarti completamente dal social network. E poi la cosa bellissima, che manda dei messaggini di non ci credo, elogi funebri a tutti i tuoi amici di addio. Tu puoi scrivere la tua lettera suicida e lo mandi alle persone. Dici: ah, io lascio Facebook, non ne posso più, la vita non va bene, non mi taggano bene, nelle foto sono brutto. Perché poi che puoi dire? Un suicidio di Facebook, sono brutto nelle foto, i miei stati personali sono pietosi. Lasci così, i saluti tutti, ti eliminano e finisce lì. Ah, finalmente. Senti. Ah, sei morto da Facebook. Sei morto. Basta. No, capisco che è una bella cosa per chi odia Facebook. No, no, no. Però comunque dopo i problemi c'è lo stesso, Cioè, tipo, non è che risolvi. No, è chiuso. No. Dovresti anche cancellare MSN, dovresti cancellare Skype, c'è dovresti da prendere dire... il computer e buttarlo giù dalla finestra. No, non è c'è che... da dire che questo tipo di software creato da, voglio dirlo adesso, si chiamano Les LAN Invisible, le connessioni invisibili. Li salutiamo perché è un'idea a suo modo. Salutiamo le connessioni invisibili, un gruppo di net artisti formato, nominiamolo solo qualcuno, Clemente Pastelli e Jonathan Quintini. Ma proviamo ad invitarli, non so se li invitiamo. Se volete venire io vi appoggio, se volete mi suicido in diretta. Facciamo parlare il nostro DJ sociopatico, fate una bella discussione. Se volete io mi suicido in diretta, ve lo giuro, se venite qua prometto che io mi suicido in diretta da Facebook. Perché secondo me è una genialata. Tra l'altro, talmente che questa cosa è piaciuta agli utenti che ci sono stati tantissimi suicidi di massa. Oh mio Dio. E Facebook incazzati come delle bisce, hanno fatto causa. No, non è che puoi fare causa. No, infatti non puoi fare causa, perché ognuno sceglie di fare. Se me voglio andare, perché tra l'altro se tu provi ad andartene da Facebook in maniera normale non te ne puoi dire, è difficilissimo. Però è difficile, però non impossibile. È difficilissimo, complicatissimo. Invece questo sembra un ottimo metodo per farla finita il più velocemente possibile. Sì, secondo me sì, io lo farò, tu lo farai? Ma a me Facebook piace, non mi piace parlare con la gente, quindi non sono così... Falla finita, ti piace Facebook? Radical. Chiediamo al nostro DJ, DJ a te piace Facebook? Non vi vedo! Non so cosa intende. Non ci vede. Guarda, oggi. Quando ha detto no, pensavo dicesse no. E quindi ero felicissimo, proprio felicissimo. Vabbè, andiamo avanti, va bene così, dai. Andiamo avanti. Allora, è il momento della canzone del giorno. Che canzone abbiamo scelto adesso? Allora, questa volta abbiamo scelto un bellissimo pezzo. Qualcuno di voi magari l'avrà sentito al cinema, in una di quelle bellissime pubblicità che fanno, sai, queste macchine che sfrecciano a tutta velocità. Rosse di una nota fabbrica, diciamo. Guarda, italiana. Mi sembra italiana. Sono tipo due le macchine italiane. Ormai fanno i soldi, grosse fabbriche sono quelle lì. Una è quella lì. Comunque il pezzo è Nuvolari. Sì, Nuvolari. Di Lucio Dalla. Un pezzo, tra l'altro, secondo me esagerato, è bellissimo in una versione, la prima versione mi uscita. Sa che l'hai scelto tu, perciò dici, sì. Vero? Sì, un po'. L'hai scelto tu. La cosa particolare di questo pezzo è che al piano, sì, e a Rhodes, che è questo piano elettrico importante, indovina chi c'è? Chi c'è? Rosalino Cellammare. Rosalino? Ron. L'uomo con i capelli rossi. Esatto. Ah, Ron. È lui, è e quindi lui. Canta? No, non canta. No, chi canta allora? Ah, se c'è Ron, chi canta? No, non lo so chi canta. Lucio Dalla canta. E perché se c'è Ron? Perché? Perché tu qua non sei gossip. È il gossip? Si dice, io non voglio dirlo, ma so il gossip, che diciamo che non c'è solo un'affinità artistica fra Lucio Dalla e Rosalino Cellammare. No. Dicono così. È sì. Amore, probabilmente. È stato amore, magari. Se sarà stato amore, che non diciamo niente. Cioè, non è un problema, sto dicendo semplicemente un gossip che magari qualcuno non sa. Ma no. Io so. Rosalino Cellammare e Lucio Dalla sono stati una coppia, non solo artistica, come adesso sentiremo. Ma anche... sai per certo oppure... No, ho letto su internet un po' di tempo fa, sapevo che c'era questa vicinanza. Facciamo un fatto, io lo dico, qui lo nego, quindi okay, siamo a perfetto. Posto, mi salvo così da qualsiasi tipo comunque, di querela. Comunque il pezzo è Nuvolari, lui è Lucio Dalla. A ciao, tra belli. Poco. Basso di statura, nuvolari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Uccelli nell'aria perdono l'ali quando passa Nuvolari. Ah, ah, ah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando corre Nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di sciolgono come bottiglia, tutta la polvere è spazzata via. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire. Guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari è bruno di colore, Nuvolari ha la maschera tagliente. Nuvolari ha la bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. We'll be right back. destino quando corre Nuvolari. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando passa Nuvolari ognuno sente il suo cuore vicino, in gara a Verona e davanti a Bordino. Con un tempo d'inferno, acqua, grandine, vento, pericolo di uscire di strada, a ogni giro l'inferno, ma sbanda strisce schiacciato. Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari. Bella, ti dico la verità, bella, bella con scelta. Con un giro di basso, un pezzo eccezionale, un pezzo eccezionale su un pezzo di storia italiana, bello. Su un eroe italiano. Sì, Nuvolari eroe, Nuvolari eroe. Eroe sportivo italiano, sì. Un personaggio incredibile. Poi uno, il pezzo... di quelli, uno di quelli da nominare, diciamo così. Un pezzo incredibile. Sì, bello attivo, bello sveglio, la gente secondo me l'apprezzerà sicuramente. E passiamo subito alla notizia adesso. Io per questa notizia, prima di incominciare, ti dico che voglio dirla anche a un'altra persona. No, ho già capito di chi stai parlando. Allora, io non è possibile. Allora, dimmi. Non è che adesso voglio fare quello lì che dice la radio è mia. Però lo stai facendo. Però, lo so, però quella persona io la odio. Cioè, ma non è... Ma, io non lo sopporto. Ma a me piace molto. È meschino. No, a me piace, a me piace. A me, secondo me, hai sai perché... Il fatto che tu pensi che sia meschino, non ne parliamo, guarda, se no finiamo per in verità litigare. Io ti ho scavalcato, grazie, spero grazie. Che tu non prenda delle conseguenze, e vai. Abbiamo già in collegamento il nostro Ascanio Mummolo. Ma guarda, io faccio il bravo. Dimmi. Oggi, ti prometto che faccio il bravo. L'hai promesso? L'ho promesso. Vabbè. Promesso. Pronto Ascanio, ci sei? Pronto. Ascanio. Chi è? Ascanio, Radio 2010, l'ho chiamata 10 minuti fa. Ah, per sempre, dire. Ah sì, è veramente, che rottura. Ma come buonasera, che rottura? Buonasera. Ah, buonasera, come sta? Bene, bene. Ah, mi fa piacere. Allora, Ascanio, io volevo... Siamo già in diretta, scusate. Sì, siamo sì, già in diretta. Ah, va bene. Siamo in diretta. Cazzo da fare. No, no, che cosa dici? No, no, siamo in diretta. No, non ho detto niente, per favore. Allora, volevo leggere una notizia, ho preferito leggerla davanti a lei. Allora, la notizia è che Silvio Berlusconi ha affermato che purtroppo con la crisi attuale una riduzione delle tasse è fuori discussione. Alessio, niente riduzione delle tasse, c'è crisi. No, allora, il discorso è che lui aveva proprio detto togliamo le tasse di mezzo, cioè l'aveva proprio detto. Questo adesso questa notizia risulta un po' come so che l'avevo promesso, però adesso c'è una situazione diversa e quindi non lo posso più fare. Vabbè, bella storia questa. Vabbè, che vogliamo fare? Una storia italiana. È classico, secondo me è un classico, sì. Proprio della politica. È il governo che ha sbagliato. Cosa ci vuole dire? No, cosa ci vuole dire? No, nel senso che... dica. Allora, se pagassi le tasse... Come pagassi? Lei non paga le tasse? No, non le pago io personalmente, le paga il mio commercialista. Ah, quindi lei le paga le tasse? Sì, quindi... se le pagassi, quindi... No, scusi, lei le paga? No, se, no, se le pagassi è un condizionale. No, io le pago. Le pago. Cioè, nel senso... Le pago. Allora, io per questo odio questa persona. Signor Mummolo, lei le tasse le paga o no? Sì o no? È semplice. Le sì pago, o no? Le pago. Ah, le paga. Le ha detto pago, che le paga, ha detto che le paga. Pago, basta. Ma le paga. Basta, basta. Vabbè, ci fidiamo, andiamo avanti, ha detto che paga le tasse. Il programma deve andare avanti. Non posso stare qui tutta la giornata. Facciamo le altre domande. Così finisco e me ne vado a mangiare. No, lei stava dicendo, se lei pagasse le tasse. No, lei paga le tasse. Sì, le pago. E quindi questa riduzione non aiuta, diciamo, no, così, anche, neanche lei. Perché le tasse che mettete voi comunque servono. Ma ci vuole le infrastrutture, le ospedali, certo. A pagare la polizia. A far sì che tutto fili liscio, sì. Che ci sia pulizia per le strade. Sì, in teoria così dovrebbe essere utilizzato le tasse. Sì. Sì, in teoria. Sì, sì. Lei pensa, lei contribuisce quindi alla costruzione delle infrastrutture, pulizia delle strade. Sì, sì, a volte puzzano pure le strade perché non vengono pulite bene, con tutto che voi pagate le tasse. Come voi? Voi anche, anche o lei noi paga le tasse. Ma io le pago di più, quindi vabbè. Io non le, ripeto, non le pago io personalmente. Va bene. Quindi lei è contro questa scelta del governo? Sì, sì, assolutamente. Mi dissocio da questa scelta che hanno fatto. Con forza proprio, la sì, vedo astioso. Sì, sì. Io adesso ho bisogno di capire una cosa. Dimmi. È importante. Sì. Cioè, mo mettiamo da parte un pochettino tutti i nostri problemi, signor Mummolo. Appianiamo. Sì, cioè... una bella amnistia tutti e due. Una bella piallata. Sì, una bella piallata. Una bella piallata, una persona simpatica. Sì, è simpatica. La simpatia mi ha messo in dubbio. Allora, perché lei ci sta dicendo queste cose? Ma perché io sono un italiano e da italiano vorrei che certe cose venissero a... diciamo così. Sì. Secondo me non regge. Lei per... realmente però... io comunque vengo dal popolino, lei è dal popolino. Sì, oh. Ma dai, ma popolino, i mummoli, tutta mummoli, la storia dei mummoli. Il popolino. Ma i mummoli perché ho avuto un po' di fortuna. Sarebbe un bel culo, però un po' di fortuna, un po' d'aiuto, cioè, però. Lei la vedo astiosa, ce lo dici, ci dica la verità. Senta, spegniamo i microfoni. Spegniamo i microfoni. Possiamo un attimo, stiamo registrando. Se vuole no. Se vuole evitiamo. Ok, vediamo di registrare. Va bene. Avete fermato, sicuro? Sì, sì. Okay. Allora, in realtà, adesso ve lo dico. Sì. Io mi sto candidando per le prossime elezioni. Veramente? Ma sì, assolutamente. Anzi, se volete, se mi aiutate a candidarmi, io poi vi do una fatica seria, perché questa è una cagata. Diciamo, ma non è vero, quella è una radio, non è una cagata. Ci impegniamo. Sì, vabbè, la volete chiamare radio, ci mettete l'impegno, questa cosa mi può anche piacere che vi impegnate sulle stronzate. Ma come le stronzate? Però, cioè, se volete un lavoro serio, venite da Mummolo. Mummolo non si scorda degli amici, soprattutto se aiutano a dare i voti. Ah, comunque, quindi se noi facciamo un po' di pubblicità alla sua candidatura, lei... Non vi preoccupate, già si sta provvedendo, cioè già ho un sacco di persone sparse. Io non commento, non commento perché non... Vabbè, ma non commentare, ci sta facendo un fatto fra di noi, sì, cioè figurati. Sì. Sentite questa, dopo un presidente nero c'è bisogno di mummoli. Oddio, questo è il suo slogan. Sì, vabbè, uno che ho pensato così è venuto a volo. Dopo il nero i mummoli. Sì, sì. A me piace. Lei sì, carino. Sì. Comincerà la sua... Già l'ho iniziato di nascosto. Ho pagato 2-3 writer, se così si può. Sì, invece di scrivere i graffitari. Sì, invece di scrivere quelle cagate sui muri, sto facendo scrivere vota Mummolo. Vota Mummolo? Sì. Cioè Milano... Stiamo preparando il terreno. No, sto dicendo che, sai, tipo, vogliamo bene a Mummolo. Ma Mummolo per Milano? Stiamo preparando il terreno. Stiamo parlando che lei ha fatto imbrattare Milano. No, io ho fatto solo scrivere sopra le scritte che già c'erano, insomma, quelle locandine di quelle fasce di cazzo che tenevano, sai. Ah, su altri candidati? Sì, oppure sai, quelli con gli scherzi stupidi che facevo quando eravamo bambini, fai disegnare i baffi oppure sai tipo che ne so li fai con le foto a fianco ai trans veramente. Sì, sì. Ma questo quindi... già ci pensa la polizia a quanto tra l'altro questa cosa dei trans ormai. Vabbè, diciamo la polizia, sì, polizia, vabbè, cioè, vabbè, lei vabbè, ha lo zampino, sì, pure ha detto, mi sembra che lei ha lo zampino pure in questa. No, io diciamo aiuto a far sì che la legge venga presa, diciamo. Ah, vabbè, cioè, quindi funzioni, lei ecco. È partito subito con la campagna elettorale aggressivissima, a quanto sì, ho capito. Sì, sì, sì. E per voi non avete visto sotto al Duomo? Che c'è? Quello piccolino, diciamo, che è stato lanciato così. Oh, stiamo entrando in un argomento, diciamo. Ma che se ne fate, tanto mica stiamo registrando. No, assolutamente, però lei si ricordi che non è che ci può dire tu, cioè se ce lo vuole dire ce lo dice, però... No, vabbè, allora, a questo punto mi sto zitto. No, adesso no, siamo curiosi. Se lo dica in allora, un altro modo... Che divertente! Questa storia è divertentissima! Allora, stavamo del Duomo, il Duomo quello lanciato, l'Italia in miniatura, sì, il Duomo sì, piccolino. Il Duomo piccolo, sotto sta scritto Mummolo S.P.A. L'ha fatto lei? No, l'ho fatto io! S.P.A. Sì, S.P.A. perché è un'altra delle mie società che tengo. È una sua società. Fa statue piccoline e da lanciare. Appositamente da lanciare. Sì, sì, sì. Tipo, se vai a Roma ci sta il Colosseo piccolo. Statue da lancio. Statue da lancio. Mummolo. Sì, o scarpe. Scarpe pure. Sì, perché non so se avete visto nei parlamenti esteri. Sì, a George Bush lanciarono la scarpa. Sì, ma in Iraq. Sì, sì, sì. Però George Bush scansò alla grande, sì, mi ricordo benissimo. Sì, sì, fu più perché l'ho avvertito più io per farmelo un po'. Ah, l'ha avvertito? Sì, sono tutti giochi. Voi perché siete degli ignoranti stupidi, non grazie, sapete un cazzo. Grazie. Però ci si stupidi. Muove così. Ah, quindi lei parte da un bel po' questa idea di candidarsi. Sentite, io i soldi non è che li ho cagati dal culo. In un modo o nell'altro li dovevo signor fare. Mummolo. signor Mummo. Vabbè, è stato chiaro, non ha cacati dal culo. E ci sta. Vabbè, abbiamo capito. Quindi lei si è dato da fare tanto questi posso anni. Posso premere rec e continuiamo a registrare? Possiamo riregistrare, facciamo un saluto finale. Sì, però posso dire una cosa, se mi dite prima le domande io me le preparo, perché così non facciamo le brutte figure. Almeno io faccio le brutte figure. Sicuro? Sì, sì. Ma lei la sua spontaneità, diciamo che un po', cioè funziona. Sì, però poi viene visto male, viene detto, vabbè, è troppo verace, tipo i pomodori, la salsa. Va bene, allora facciamo un fatto. Non piace questa veracità. Va bene, allora ha anche ragione lei. Allora facciamo così, adesso riprendiamo a registrare, le chiedo, allora la ringrazierò di quello che ci ha detto e quindi non nominiamo questa cosa che le sta facciamo candidando. Un bel lavoro di montaggio. Non si preoccupi, magari. Non parliamo della questione che si candida, perfetto. Diciamo quindi lei è contraria a questa anche riduzione. Perché all'improvviso vedranno PAM vota Mummolo enorme scritto nel cielo. nel cielo. Sì. Quest'uomo non ha limiti. Nessun non ha limiti. No, oltre e addirittura sono andato in Cina e ho visto che tengono un apparecchio per far venire a nevicare. Sì, e ho questa parecchio, ho pagato delle persone per far venire a fare le nuvole a forma di Mummolo. Mamma vota mia, Mummolo. Vota Mummolo in cielo. Enorme, grande. Lei è un visionario. Come se l'avesse scritto il Padre Eterno. Lei io è un già visionario. Me lo vedo. Vota Mummolo. Lei è un visionario. È una mano di Dio così. La mano di Dio che indica. Sì. Lei è un visionario e io non vedo l'ora di vederlo. Lei è pazzo. È pazzo. Vabbè, visionario è più bellino. Allora facciamo così. Tutti i visionari erano pazzi. Sì, questo pure. Però sono anche i geni erano pazzi. Vabbè, anche Hitler dicevo che era un visionario. Diciamo così. Vabbè, qui è un cretino. Non si è saputo cretino. Giocare le carte giuste al momento giusto. Vabbè. Fermiamoci. Dico, vuoi bruciare il mondo? Fare una vampata. Non perdere più colpezze. Fermiamoci qui. Facciamo fatto. Adesso io riprenderò. Però ci dilunghiamo. Grazie per le nostre. Per le cose io devo andare e a lei certi incontri di andare incontri. Va bene, chiudiamo. Prendiamo rec. Perfetto. Grazie a Scanio Mummolo. Grazie mille a Scanio Mummolo. Grazie per la sua intervista. Sì, abbiamo capito grazie che lei è contrario alla non riduzione. No, non si devono ridurre. Cioè, soprattutto perché l'aveva promesso prima. Sì, non puoi promettere le cose e poi te le tiri dietro, capito? È come promettere a una prostituta di dare dei soldi e poi dici, ah, ma io solo 5 euro. Non si può. Questo deve essere esempio calzante. Viene il pappone e ti ammazza di botte. In teoria sì, allora troviamo i papponi per picchiare chi ha detto questa cosa. Papponi in che Parlamento. In questo caso non siamo delle puttane, siamo stati violentati e non c'è stato. Guarda, però questo dire una cosa. Questo uomo è un genio. Sì, noi non siamo delle puttane. L'ha detta bene. Dateci i nostri 50 euro per la botta che abbiamo dato fino adesso, per le nostre prestazioni. Se no lo prendiamo solo nel culo. Noi ci siamo chinati e vogliamo i soldi. Va bene, grazie, io lo apprezzo tantissimo. Spero che tu abbia apprezzato pure tu. Grazie soprattutto per questo, diciamo, per questo modo di parlare così aulico che è sempre sì, ci affascina. L'Accademia della Crusca. Grazie, però grazie. Ho studiato con Emanuele Filiberto. Sì, è uguale, un'altra bella storia. Tra l'altro Emanuele Filiberto, sì, cioè, stiamo parlando proprio. Va bene, andiamo avanti, la ringraziamo tantissimo. Grazie, arrivederci. Buona da giornata, Radio 2010, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci. Hai premuto rec un pasta adesso? Sì, sì. Allora, però mi posso chiedere una cosa. Non è che ogni settimana dovete venire a rompere i coglioni. Dai, ma noi non rompiamo i coglioni. No, perché ci sta una testa di cazzo che io per fortuna vostra non sono vicino a lui. Chi è l'altro che parla? L'altro non testicolo io. Destro e uno sinistro. No, come testicolo okay, destro? Ok, tu sei il destro. Io sono Ernesto, il testicolo destro. Sinistro Evaristo. Evaristo Alessio Strazzullo. Perfetto, suo nome e cognome. Segna tu. Ma chi segna? Non ti preoccupare, mi rompe sempre i coglioni. No, però già l'età, lei qualcosina di strano lo dice. Io perché l'apprezzo è che sono particolare. Alessio, io sono un una persona che deve essere rispettata. Ma cioè, questo è un lurido maiale, si deve stare zitto. Va bene, allora facciamo. Se no, io vi faccio chiudere baracca e burattini. No, siete voi burattini. Ah, siamo noi. E io sono testicoli e burattini. Siamo burattini testicolari. O siete testicoli e burattini, quindi siete di legno. E fatti anche male perché sono piccoli. Quindi siamo dei testicoli burattini testicolari, sì. Per lei. Grazie, bellissime parole, io le terrò nel cuore per sempre. Ecco. Le assicuro che Alessio Strazzullo la prossima volta forse sarà leggermente. Lo vedo poco propenso, però ne parleremo in seguito. Spacco il culo! Allora, signor Mummolo, lei non si può permettere, questa tra l'altro è la mia radio, lei non si permette di trattarmi così. Vabbè, però davanti, allora io. Davanti a. Allora, se tu mi vuoi chiamare. Per delle informazioni io ti rispondo anche, ma se mi devi trattare da vabbè, schifo. La prossima volta sarà difficile averla in trasmissione. Chiudiamo subito il collegamento per va favore. Bene, chiudiamo il commento. Le assicuro che le parlerò io col mio capo. Grazie va mille, bene. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Giovanni. Alessio. No, io ma non cosa mi combini? Se tu vuoi continuare a discutere di questa cosa, ma cosa io combini? Non. Cosa mi combini? Io non cosa ho più intenzione di dire altro. Vabbè, cosa mi combini? Però io adesso riguardo la cosa di. Ok, riguarda la cosa di Ascanio Mummolo, ho bisogno di parlare proprio di gente che si candida. Sì, ormai si candidano tutti. Si candidano tutti, questo non c'è dubbio. E ho visto che si è candidato il cantante neomelodico napoletano Mimmo no, Dani. No, Mari Mimmo Dani. Adesso scrivi 18 anni sull'anno è più bello e non tornano più. Vedo che lo cioè, sai. Questa è vabbè, ma Mimmo se Dani. Se qualcuno è... non lo sa, adesso chiediamo al nostro DJ di mandarla. Per favore, Corrado, potresti mandarla? Eccola. Sentite che sound. Oh yeah. Yeah. Che sound, che qualità, una qualità eccezionale. Comunque, stavo dicendo, Mimmo Dani praticamente fantastico. Che classico. Aspetta. Ho quel vestito bello. Qua c'è la frase di cui parlavo. 18 anni sono l'anno più bello e non torno più. Incredibile. Bellissimo, il mogol dei giorni sì, nostri. Assolutamente. Il mogol neomelodico. Un poeta, bellissimo. Un poeta. Tu lo sai come nasce la voglia di fare musica Mimmo Dani? Questa cosa è particolare. No. Ho letto la biografia su internet che praticamente Mimmo Dani a 17 anni chiede al papà la moto. Papà voglia moto. E il padre gli risponde con genialità secondo me. A moto runtarong, la moto non te la do. Vuoi fare un disco musicale? Ah, mi sembra una cosa. Mi sembra una cosa perfetta. La moto no, però la musica sì. Proprio non noto assolutamente un collegamento fra le due cose. No, ma non c'è. Praticamente non c'è. La vuoi la moto, un ciclomotore? No, fai musica. Fai e parte un, la fai musica. Un disco, soprattutto. Fai uno. Un prodotto finito. Ne ha, fai un disco. Li ha cacciati come fosse un coniglio. Sì, veramente. Cioè, fa proprio dischi come Ken Follett fa libri. Sì, cioè, uno al mese. Sì, ta. E la gente gli piace. No, gente non ho dubbi. Allora, guarda, riguardo alla sua candidatura, perché io sono andato in giro a spulciare perché la notizia mi ha solleticato. Certamente, avrebbe solleticato. Lui è stato intervistato dalla televisione napoletana. Lui si candida per la presidenza della regione. Ah, ma quindi è una carichetta così, diciamo. Che ne so, il bidello della scuola. Sì, mi carico al presidente dell'istituto. Sì, così lui si candida. Sì. Adesso abbiamo degli spezzoni della sua intervista. Non vedo l'ora. Ascoltiamo gli spezzoni. Vai, diciamo che c'è stata un'influenza che di non potere più di questa soprusa insistenza sono nei ristoranti che i titolari ogni qualvolta che vado a cantare agalano la corrente agalano. E lui ho detto mi devo candidare per far vasciare la corrente perché loro dicono che consumano molto questa corrente nei ristoranti. Allora io facendo il presidente farò abbassare le bollette della corrente. Allora, tutti i cittadini. Allora, innanzitutto questa storia delle bollette. Cioè, le bollette, mia nonna domani mattina, se si candidasse. Pure tua nonna, ma facciamo candidare. Nel senso, se si candidasse mia nonna domani mattina, parlerebbe allo stesso modo. Cioè, questa persona ha saltato, penso, non so, due generazioni. Cioè, le bollette. A parte, sottolineo, un cantante dove suona nei ristoranti. Ci avasciano la corrente. Lui, capito, ha avuto un problema reale e lo vuole risolvere. Ho bisogno di altri spezzoni. Sì, abbiamo altri spezzoni. Regia, per cortesia, l'altro spezzone. L'inno. Ah, un inno. La canzone che contraddistingue appunto il vostro partito. L'inno. Abbiamo creato anche una canzone, appunto. Non vedo l'ora di sentire. Se lo facete presidente, non vado a preoccupare più niente. Bellissimo. Si va passato malamente, la faccio pure la corrente. Bellissimo. Se mi faccio il presidente, io la tassa a tutta la gente. Prometto qua solennemente, sparti in manzina veramente. Cioè, ma... Bellissima. Altro che Forza Italia, questo è un vero inno. No, ma soprattutto speriamo che. Allora, mettiamo che noi domani, ma quando ci saranno le elezioni, eccetera, eccetera, lo votiamo. Sì, poi, io voto Mimmo Dani, non ti permettere di fare come qualcun altro, che poi dopo, anni vieni qua voglio e dici. Voglio la corrente abbassata. Veramente, però, voglio veramente. La corrente tra l'altro, noi qui quando facciamo la radio attacchiamo 4-5 computer, quindi tanto ci serve paga strazzullo. Ci fidiamo, ci fidiamo. E. Ho un ultimo spezzone. Non vedo il motto. Non vedo abbiamo il motto di Mimmo Dani. Ascoltate il motto. Noi come andremo. Te lo dico napoletanamente così mi capisci. Napoletanamente. Comiamo e come venim. A finale noi ci partiamo. Bellissima. Come venim a finale noi spartim. Cioè dividiamo tutto quello che abbiamo, lo dividiamo. Bellissimo. Io lo voto, tu e lo voti. E questo è Napoli, questo io lo è voto. Napoli. Ma ci penso un po' su, ci penso un po' su. No. Allora, non ci sono dubbi sul fatto che nel caso in cui votassi, sì, voterei lui sicuramente, cioè non ci sono... Presidente della Regione Mimmo Dani, che bella figura c'ha al Parlamento. Non c'è niente da dire. Lui arriva là al Parlamento con la sua bella moto. Basta, mi ha convinto. Quasi come quando Pannella decide di fare lo sciopero della fame. Quasi quasi riesce sempre a convincermi. Dico, sì, una persona che continua a fare così... Sì, smette Sciopero della fame. Con la sugna per indovina. Sì, secondo me mangia, sì, anche perché è bello baffutello. Un'altra notizia adesso, perché me l'hanno chiesta, è uno dei momenti più divertenti per me. Va fatto, so già di cosa sta parlando. La rubrica dei Darwin Awards. Ma anche perché ormai è appuntamento fisso. È appuntamento fisso, ve lo prometto. Che cosa mi racconti? Allora, quale cretino ha deciso di morire? Allora, per chi non ha ascoltato la prima puntata, oltre tutti i nostri insulti, se non l'avete ascoltata, e anche incitamento ad ascoltarla, i Darwin Awards sono un premio che viene dato a chi, a causa della sua stupidità, si elimina dal pool genetico. Esatto. E quindi migliora l'evoluzione umana. Sì. Uno è talmente stupido da ammazzarsi, così meno stupidi per tutti. Te lo ricordi, no? Sì, quel certo, premio ricordo, bellissimo, secondo me. Geniale. Ah, bella, praticamente la notizia è questa. Siamo in Canada. Un giovane uomo canadese si vuole ubriacare a buon mercato. Sì, come un ragazzo dei giorni nostri, assolutamente. È perfetto. Vabbè, un ragazzo dei giorni nostri. Un giovane canadese vuole ubriacare a buon mercato perché non tiene i soldi. Sì, la famosa vodka Rachmaninoff che si può comprare da Lidl, per esempio. Però lui è andato oltre. Sì. Oltre a queste vodka da Lidl, che di vodka hanno tipo il 2%. È come etilico. Sì. Dopo due minuti. Sì, perfettamente. Il fegato se ne va. Subito. Lui praticamente, che cosa? Il genio. Ascolta il genio. Compra del latte. Sì. E ci mette dentro della benzina. Perché? Perché così alcolico? Ma perché? Perché è si è fatto benzina. Una pigna colada, si è fatto ma una è benzina. E lo so, però quella non è la... si può bere la benzina. Immagina adesso nelle auto. Sì, ma in capo al canadese la benzina è uguale, capito? Si è fatto una pigna colada alla diesel, senza piombo. Che cosa gli è successo? Che allora, praticamente lui, ovviamente, se bevi del latte con della benzina, tu vomiti, stai male, no? Sì, se ti va bene vomiti. Sì, se ti va bene, la prima cosa che fa è vomiti. Sì. Ma il genio, la cosa bellissima è questa, che lui nel vomitare ha vomitato nel camino di casa non sua. Non ci credo, sì. Non ci posso credere. È la cosa è bella un cretino. Che, naturalmente è combustibile la benzina, lui vomita in pieno dolore naturalmente e ha preso fuoco la casa. Grazie. Che ha vomitato benzina, nel camino. È benzina, latte però, e benzina. Però è allucinante. È scoppiata la casa, lui è morto. Grazie, ti dico grazie perché è uno che... Allora, io prima pensavo che questa fosse una rubrica fascista, nazista, sì, antisemita, sessista. Ce l'avevi con me. Però questa volta, cioè, un po' alzo le mani, dico... Latte e benzina. Cioè, fatela finita. Latte senza piombo. Non è possibile, non è possibile. Perché magari questo è uno che dopo qualche anno magari mette al mondo un figlio e gli dà da bere l'ace, per l'ace, esempio. E quindi perché l'ace è buono. Meglio che muoia subito. Pestato, così sono uno di quei sì, sono drink d'accordo. Pestati come il mojito. Una fine orribile, però insomma. Però latte pure e benzina, voi, dai, sei pure pazzo. Voi. Cioè, sei proprio fuori dice, bello, sì. Latte con la benzina. Cioè, al benzinaio un cicchetto di senza piombo, grazie mille. Vabbè, allora, questa era l'ultima notizia. Noi adesso partiamo subito coi saluti. Vabbè, è importante, è una cosa che non abbiamo mai fatto fino ad ora. Va fatta, assolutamente. Cosa? Bisogna salutare tutti. Le persone che... Tutti, quindi adesso ci mettiamo con calma. E salutiamo tutti, perché abbiamo avuto gente lamentela, che si è rotto le palle, che noi non salutavamo le persone, siamo dimenticati le persone. Soprattutto è stata una questione di tempo, non abbiamo salutato le persone. Incomincio io con due persone che mi hanno proprio chiamato per dire che non abbiamo salutato. Che non abbiamo salutato e devo salutare Alessandro Amato, che è un mio collega universitario. Ah, grazie DJ per la musica. E un altro mio amico, Carlo Cataldo. Saluto con tanto affetto, grazie per averci ascoltato. Grazie. Gentilissimi. Ah, anche una mia amica Federica Mancini, che ci ha chiamato prima la registrazione, che ci ha dato i complimenti. Grazie. Grazie Federica, grazie. Grazie. Tu chi vuoi salutare più? Allora, innanzitutto le persone che ci hanno contattato oggi per essere salutate durante la registrazione del programma. Salutiamo la nostra cara amica Antonella. Ciao Antonella. Allora, signori, ve lo dico, Antonella sta cercando un uomo. Aiutiamo, sì, sta cercando un uomo, è una bella ragazza, quindi sì, è una bella ragazza. Sì. Riccardo, tu sei fidanzato? No. Ultimamente no. Ok, ultimamente no, ultimamente. È un grandissimo lati lover. In ogni caso, diamo un bacione ad Antonella, che un bacio è una bravissima ragazza. Grazie per ascoltarci, un bacio. E cerca l'amore in ogni cosa. Un po' come tutti, ma è giusto, l'amore va cercato sempre. Vogliamo salutare qualcun altro? Qualcuno, controlliamo un attimo adesso la mail, chi dobbiamo salutare. Comunque ringraziamo tutti quelli che ci contattano su Facebook, sul nostro sito. Ringraziamo tutti quanti proprio di cuore, perché bisogna fare dei saluti sistemati e questa finché volta. Tu non metti post, lo so. Scusate, eccoli qua. Allora, eccoli salutiamo qua. Innanzitutto Allora, una ragazza che ci ha lasciato un commento la prima volta proprio che abbiamo aperto il blog. Lei si chiama Roberta, che ci dice: ce ne ho due di mani a disposizione, facendo riferimento al nostro motto Cerchiamo mani. E ci dice: ce ne ho due di mani a disposizione per cercare l'acqua, ve le porgo. Ciao, aiuto, che siamo 20-10 fiere di opportunità. Grazie, e noi ti diciamo: grazie. Roberta, contattaci di nuovo, contattaci. Non abbiamo più tue notizie. Non vediamo queste mani. No, non le vediamo. Vieni qua, faccele vedere. Poi vedere Simona mani. Che ci dice: ma cos'è? Però mi ha fatto ridere un sacco. Continuate. Simona, è una radio. Simona, che cos'è? Cazzo è? Una radio. È una radio. Mi sembra quello lì della torta. Chi c'è dietro questa radio? È una radio. Che cos'è? Cara Simona, questa è una radio. Ma infatti le risposi: ciao Simona, è una radio. Per quello che. E che potevi rispondere? Sembra ovvio. Poi c'è Zell Eagle che ci dice: grandi, divertente. Poi buonasera. Un attimo, facciamolo fare per Zell Eagle. Ciao, salutiamo Zell Eagle dal nostro amico DJ. DJ, che ore sono? Caro amico, buonasera. Però questa volta è legato alla realtà. Caro amico, forse di collegamento alla realtà ce l'ha. Sì, continuiamo. Ti ricordi quando parlammo di Bolzaneto? Sì, della banca? Bolzaneto, sì. C'è chi ci dice: a Bolzaneto è dove gli sbirri dopo il G8 di Genova. Noi questa cosa l'avevamo dimenticata. Hanno inventato vari giochi, tra cui Festa in Rasta. Vabbè, anche, raccontiamo comunque è successo il G8. Salutiamolo, non ha nome. LOL. Grazie LOL. Ciao LOL. E Kerib invece dice che praticamente i suoi amici di suo fratello fanno parte dell'organizzazione dell'Hug Day. Ti ricordi? Sì, abbiamo parlato, sì. Ci ha salutato. Noi li abbiamo invitati, abbiamo detto: venite in trasmissione, parliamone. Non sono venuti. Erano intenti ad abbracciarsi l'uno con l'altro. Maurizio invece fa riferimento in un post, in un commento, a quel... a quel ragazzo che è l'unico ascoltatore della prima puntata, Andrea Melchiorre. L'unico dice, non so perché, gli dicevo: Melchiorre, che pazienza che tiene, che Andrea cattivo. Melchiorre, noi ti aspettiamo qua. Sei il mio unico dio. Perché noi vogliamo te. E Maurizio, perché? Poi, Peppe, che tra l'altro lo sappiamo chi è, cioè io so chi è, una persona lo conosci personalmente. Sì, è una persona che poi verrà anche in radio al 100% sicuramente. Si dice: saluti da Giuseppe Francesco Maria Pace, parlando dei nomi e cognomi. Ti salutiamo Peppe, tra l'altro ti aspettiamo, insomma abbiamo bisogno di una mano, qua siamo rovinati. Ciao Peppe. Giovanni ci dice: veramente veramente figa questa radio, complimenti a tutti. Aspetta, ci sono tre veramente, veramente veramente veramente figa, complimenti a tutti. Lui viene da Bologna, a Bologna parlano così, insomma. Mi stupisco che non abbia aggiunto uno: uela zio, uela, uela, bella zio, bella roba. Poi c'è Simona, sei stata cattiva, cioè sei stata veramente cattivissima. Simona dice: ma vi è convenuto far vedere? Lei si riferisce al video, abbiamo messo un video dove si vede la nostra faccia e ci dice: adesso siete riconoscibili. E poi mi sa che se ne perdete in pubblico femminile. Grazie Simona. Una si immagina un bel volto da associare a delle belle voci, e invece però ci ha detto che abbiamo delle belle voci. Però c'è pure, siamo decessi. Non so, vabbè, le donne sono fatte così, prima danno un po', poi prendono un po'. Ho capito, ma belle voci e cessi c'è una bella differenza. Lo so. Sei bello dentro. La salutiamo. Capito? La salutiamo. Poi salutiamo Ivo Casale. Ivo Casale ci ha dato una notizia. Oltre a darci delle indicazioni riguardo a dei programmi che potevamo scaricare, a me personalmente. Ci ha dato la notizia Anza, che ne abbiamo parlato oggi, di Mimmo Dani. Grazie mille. È stato lui, grazie mille. Il nostro inviato, praticamente. Grazie mille. Poi salutiamo quelli che ci aiutano a fare le sigle ogni giorno: Roberto Porzo e Paolo Pedrella. Levenaz Quartet. Dimentichiamo qualcuno? Annalisa ci diceva di dire. Voleva annunciare il proprio amore a tutti. Sì. Per il suo ragazzo. Alessandro. Ah, Annalisa Alessandro. L'ognomo, voleva dire: ditelo in radio, ditele che lo amo. La follia. Alessa, ti amo. Ti amo Annalisa. Abbiamo fatto pure il servizio tipo strano amore. Che dobbiamo? Abbiamo fare, finito? Che dici? Mi sa che questa volta abbiamo. Dove ci possono contattare? Ma ci potete contattare sul nostro blog, sulla pagina di Facebook e all'indirizzo www.radio2010.com. Esatto, perfetto. Venite là, trovate tutte le indicazioni, scaricate i podcast, insomma. Vi salutiamo, avete visto? Vi salutiamo, prima dobbiamo fare un annuncio. Dimmi. È successa una cosa terribile ad Haiti. Sì, momento serio. Lo sapete tutti, momento serio. Cerchiamo di aiutare come possiamo, perché abbiamo avuto anche noi le nostre belle tragedie, ma non solo per questo. Proprio aiutiamo perché bisogno, tutti quanti, mi raccomando. C'è bisogno di aiuto. Basta c'è poco. Bisogno di aiuto. Basta poco che ce l'ho. Sì. Finiamo la puntata e, come al solito, saluti da Riccardo Cremona e da Alessio Strazzullo. Siate curiosi, Radio 2010, mi sta stretto lo stivale. Ciao. Ciao ragazzi. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10